Voi sapete che i muri di Bologna sono delle bacheche affissi da 25 opere di artiste che insieme al collettivo CIP hanno deciso in queste settimane di prendere posizione e occupando gli spazi del comune, con il patto di collaborazione che abbiamo, hanno deciso di lanciare un progetto che in queste settimane ha preso posizione, un progetto femminista e antirazzista. E in particolare una di loro, Silvia Calderoni, è stata oggetto di numerosi insulti, attacchi, perché ha messo a disposizione il proprio corpo per uno di questi interventi. Interventi che sono in via indipendenza. C'è una strana corrispondenza di nomi, diciamo, e di luoghi nella nostra città. E se questa è una città libera, lo dobbiamo agli artisti che, nonostante le difficoltà di questi anni, hanno deciso di venire a vivere a Bologna per continuare ad esprimere la propria libertà e la propria creatività. Lo hanno fatto perché hanno riconosciuto in questa città uno spazio di libertà, uno spazio di conflitto, uno spazio di partecipazione. E quando noi diciamo che Bologna è una città femminista, non lo diciamo perché semplicemente il sindaco prende posizioni a favore delle donne. Certo, Virginio su questo ha sempre lavorato. Non lo diciamo semplicemente perché noi facciamo delle scelte politiche in un certo qual modo, ma perché questa è una città che chiede fortemente di rispettare i diritti delle persone e in particolare in questo periodo di pandemia abbiamo visto come la crisi ha picchiato duro soprattutto su alcune parti della nostra popolazione. Che il linguaggio dell'arte dia una forma a una città, a mio parere, è una cosa straordinaria. E le nostre istituzioni, i nostri musei, in queste settimane hanno imparato a prendere forma attraverso il linguaggio dell'arte e degli artisti. Credo che la scelta che ha fatto Lorenzo insieme a Roberto, Maurizio, tutti i collaboratori e le collaboratrici del MAMBO, dell'istituzione musei, è stata interessante, uso questa parola, e allo stesso tempo bella per questo motivo, perché non dovevamo riempire gli spazi, dovevamo prendere posizione e dovevamo mettere la forza delle istituzioni al servizio degli artisti, delle artiste di questa città, che sono i giovani artisti e le giovani artiste di questo paese, di questa Europa, che in questo momento è attraversata dalla pandemia, ma anche attraversata da una forte messa in discussione dei diritti fondamentali. Non solo la libertà di espressione, ma addirittura la libertà di poter sentirsi se stessi su questo territorio.